Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di economia, parliamo di capire l'economia con un libro scritto da Roberto Fini. Buonasera Roberto Fini. Buonasera. Roberto Fini è docente di economia nelle scuole, docente negli studi superiori e attualmente presidente per l'Italia nell'Associazione Europea per l'Educazione Economica. Ecco, questo libro si intitola Capire l'economia, ma c'è anche un sottotitolo, possiamo dire, For Dummies, che è una collana nata in America, mi sembra, possiamo tradurla per ignoranti, per imbranati. Per imbranati, ecco, capire l'economia per imbranati. È una collana di Oepli in cui ci sono molti altri argomenti, dal vino all'italiano, alla fotografia, ad altre discipline, ed è una formula diversa. Che tipo di formula, Roberto Fini? Sì, beh, è una formula che, al di là della varietà dei titoli, serve appunto per introdurre una disciplina o un ambito, questo naturalmente riguarda l'economia. Io ho letto con piacere anche altri volumi della collana, sia nell'edizione americana che in quella italiana. Sono tutti fatti per un pubblico non specialista, naturalmente, o addirittura del tutto ignorante, lo dico in senso positivo, della disciplina stessa. Ecco, lei parla di disciplina, quindi l'economia non è una scienza. Questo è un bel problema. Qualcuno ha detto che è un'arte. Qualcuno ha detto che è un'arte, qualcuno ha detto che è una scienza, qualcuno ha detto che non è niente. Questo è tra l'altro uno dei grandi problemi che ci poniamo oggi come economisti o anche come docenti di economia. Che cos'è l'economia? Come la si deve insegnare? Ma prima di tutto, qual è l'ambito teorico della scienza o della disciplina? Non c'è, credo, una soluzione chiara. La crisi ha prodotto molti più dubbi che certezze, certo, nella teoria e negli economisti. Non c'è niente di male ad avere questi dubbi e queste difficoltà a definirla. Purché, anzi, questo può servire a stimolare una ricerca nuova in un ambito nuovo. Ecco, nella prima parte comincia dunque perché conoscere l'economia. L'economia dipende dagli economisti quanto il tempo dipende dai meteorologi. E si dice un'altra frase, quella che dice: se avete un problema chiedete a due economisti, avrete tre soluzioni. Sì. Ecco, l'economia non sa offrire, cioè offre tante soluzioni, però in fondo resta sempre ognuno che deve prendere le proprie scelte, le proprie responsabilità, che deve fare le proprie scelte, prendersi le proprie responsabilità. Ecco, in questo senso un libro come questo è utile anche per fare le scelte di tutti i giorni? Beh, io lo spero. C'è fondamentalmente un aspetto che va chiarito e che credo sia indubitabile per tutti gli economisti, pur nella confusione. L'economia è una scienza o comunque un ambito nel quale occorre fare delle scelte alternative avendo risorse scarse. Questa è una definizione classica dell'economia. Questo è importante perché soprattutto oggi, in quanto soprattutto i giovani dimostrano di non avere la consapevolezza che le scelte sono alternative. Recentemente sono stati pubblicati i dati del PISA sulla financial literacy e si vede che l'Italia è disastrata da questo punto di vista. Ecco, ma da cosa dipende questo fatto che l'Italia è arretrata dal punto di vista proprio della conoscenza economica, dei giovani che magari non hanno passione, non riescono ad avere passione o non gli viene infusa la passione per un'economia che poi è la realtà di tutti i giorni? Sì, io non so se sia una passione che manca. Manca l'abitudine, ci sono altre ricerche oltre quelle del PISA che stabiliscono che per esempio in Italia si parla poco di economia in famiglia. Quando c'è un problema i genitori l'affrontano indipendentemente, anzi addirittura cercando di, non dico di nasconderlo, ma insomma di evitare che i figli ne siano coinvolti. È una ragione di prudenza certo, o forse di amore genitoriale. Certo. Però questo forse non aiuta la consapevolezza. Ecco, perché appunto un'economia condivisa è un'economia anche in cui le scelte diventano più responsabili, diventano anche capaci di portare a delle scelte positive. Molto spesso anche nelle scelte degli studi non si fa i conti con la realtà, si seguono molto spesso delle tendenze o delle mode. Sì, questo è terribile. Io vedo che l'orientamento sia a livello medio superiore che universitario dei ragazzi è un orientamento di totale superficialità. Non è colpa loro, è appunto il seguire le mode. Pochissimi si rendono conto che ci sono gli strumenti per comprendere quali sono, per esempio, le lauree deboli e le lauree forti, per cui si iscrivono molto spesso alle facoltà dove si iscrive il proprio amico o la propria ragazza. Il risultato è che probabilmente uno dei due resta indietro o la ragazza lascia il ragazzo. Ecco, questo è anche un altro effetto preterintenzionale forse, sì, di questa realtà. Ecco, una realtà però, quella economica, che resta complessa, una realtà complessa che sembra un po' anche escludere, per creare delle barriere. La crisi degli ultimi anni forse non ha facilitato, ha creato ancora più problemi verso il fatto di, non dico amare l'economia, però avvicinarla con un certo interesse. Sì, le crisi in generale non aiutano naturalmente i redditi delle persone, ma non aiutano neanche a chiarire quali sono i meccanismi che ci stanno dietro. Questa crisi in particolare, per almeno un anno, dal 2007 al 2008, è stata un buco nero dal punto di vista della conoscenza, dalla parte degli stessi economisti, o più che dagli economisti, da chi diffonde. Non l'hanno prevista perché la parte di economia dominante sino a quegli anni non prevedeva la possibilità che ci potessero essere crisi di questa portata, e soprattutto nessuno prevedeva che sarebbe stata così repentina. Certo. E questo naturalmente ha spiazzato un po' tutti. Dopo le cose si sono, da questo punto di vista, sistemate, però ancora oggi noi non abbiamo elementi certi sulle cause profonde della crisi. Ecco, quindi bisogna pensare l'economia è qualcosa. Infatti questi 10 capitoli del libro, lo ricordo, Capire l'economia for Dummies, sono capitoli che invitano a pensare. Tutti hanno come termine comune il pensare alle forze produttive, pensare alla microeconomia, pensare in modo eterodosso, cercare di uscire un po' dai luoghi comuni, pensare in grande, cioè la macroeconomia. Ed è significativo che l'ultimo capitolo sia 10 distretti industriali. Si scende nella realtà concreta, non è solo l'economia teorica, ma c'è anche una parte concreta, perché poi la teoria poi fornisce degli strumenti alla pratica. Come mai questi distretti industriali? Beh, dunque, questa parte delle decine, così si chiama nella edizione americana, è una tradizione della collana. Nel caso specifico io ho pensato che si potesse scendere nella realtà, trovare 10 situazioni produttive interessanti, positive o negative. Purtroppo la maggior parte sono negative, ma questo perché la crisi ha dato dei colpi notevoli anche ai distretti industriali. L'idea che mi ha guidato in filigrana è che anche i distretti vanno ripensati. Non possono più essere i distretti di 20 anni fa, quando sono nati e quando è stato un momento importantissimo dello sviluppo industriale italiano. Tra l'altro li abbiamo inventati noi, certo. Beccattini li ha inventati ed esportati a livello teorico e a livello concreto. È chiaro che, come tutte le realtà, si modificano, e se non si modificano restano indietro. Comunque, guardando l'economia italiana, sono comunque un esempio di una realtà dinamica, di una realtà che ha saputo creare anche dal poco delle realtà industriali positive che sono affermate nel mondo, che adesso devono indubbiamente cambiare, ma che danno un po' di prospettive positive. Ecco, possiamo guardare con un po' di ottimismo, forse un po' più di speranza, anche le prospettive dell'Italia economica nell'attuale realtà? Dunque, si tratta di immaginare di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Le due ottiche non sono alternative, come sembrerebbe. Ci sono molte situazioni, non dico di eccellenza, ma situazioni di notevole importanza positive, altre naturalmente negative. Molti giovani, per esempio, hanno trovato stimolo dalla crisi nel intraprendere attività nuove e molto interessanti. Certo, sfruttando le nuove tecnologie, sfruttando i social network, quindi tutte queste realtà che offrono nuove opportunità a costi enormemente inferiori di prima. Non c'è bisogno di comprare un tornio o una pressa per fare qualcosa, basta un piccolo computer e si può collegare. Sì. D'altra parte il Sole 24 Ore documenta giornalmente, potremmo dire, una serie di opportunità che vengono colte, certo con difficoltà perché la situazione non è facile. Allora, parlando di economia, Roberto Fini, autore del libro Capire l'economia for Dummies, questo libro costa 19,90 euro, è un buon investimento? Posso astenermi dal rispondere? No, è un buon investimento. Cioè, come va sfruttato questo investimento? Allora, a mio avviso le persone, gli italiani in generale, devono imparare a conoscere l'economia. Lo devono fare attraverso questo libro, augurabilmente, ma comunque c'è molta editoria da questo punto di vista che può aiutare. Io trovo che, per esempio, la lettura di Galimberti nel Domenicale è un ottimo modo per imparare. Fabrizio Galimberti, lo ricordo, fa ogni domenica sul Sole 24 una pagina dedicata appunto a spiegare, a divulgare l'economia per chi l'economia non la conosce, soprattutto per dai bambini in su, diciamo. Quindi grazie anche per questo assist al Sole 24 Ore. Non pagato, assolutamente, così come non pagata è questa citazione di questo libro dell'editore Eupli nella collana For Dummies, in cui vi dicevo sono tanti argomenti, l'argomento tutto italiano è capire l'economia, perché questa collana nasce da un modello americano, ma questo libro è tutto italiano, scritto da Roberto Fini, presidente dell'Associazione Europea per l'Educazione Finanziaria. Vi ricordo il titolo, Capire l'economia For Dummies, edito da Eupli, sono quasi 400 pagine, il prezzo è 19,90 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo. Grazie.